Io nel 2012 lavoravo per Agoravox, che è un sito che aveva sede in Francia, a Parigi, e seguì il giornale le lotte del movimento NoTab, che proprio in quell'anno erano particolarmente vivaci. Quindi mi recai al campeggio di Chiomonte e iniziai a raccontare quello che succedeva e quello che facevano gli attivisti e le attiviste del movimento NoTab. Il 24 agosto del 2012 poi ho partecipato e ho seguito questi attivisti in una breve occupazione simbolica di qualche minuto di uno studio di geologi che aveva degli appalti nel mercantile della TAV e l'ho raccontato. Poi sono stato successivamente chiamato a testimoniare a favore di uno degli imputati e mentre testimoniavo la mia posizione è stata trasformata da quella di testimone a quella di indagato e da quel momento in poi è iniziato un processo e con 2 gradi di giudizio che hanno confermato la condanna a 4 mesi di reclusione. Ti avevano accusato di concorso in violazione di domicilio, nonostante tu stessi lì per testimoniare giornalisticamente quello che stava accadendo, tu non stavi facendo un'occupazione. No, anche perché in realtà nessuno, credo, io sono entrato in quell'edificio, ma nessuno mi ha ostacolato, neppure mi ha chiesto di uscire. Cioè, era una situazione effettivamente molto, ma molto serena, tranquilla, ed era un'occupazione pacifica e fisicamente simbolica, non c'era nessuna tensione particolare, ecco, né tra i manifestanti né tra le persone che stavano lavorando all'interno di quello studio. La condanna in secondo grado che hai ricevuto sta sollevando molta indignazione. È vero quello che leggiamo anche dai giornali, che l'accusa aveva chiesto la tua assoluzione? Sì, ieri mattina l'accusa, il procuratore generale ci aveva comunicato che avrebbe rimodulato, diciamo, la richiesta rispetto al primo grado, che era di condanna in assoluzione ai sensi dell'articolo 131 bis. Ed è quello che poi ha fatto, tra l'altro con una requisitoria molto corretta e molto favorevole alla mia posizione. Quindi siamo in una situazione paradossale, secondo me, per cui sia l'accusa che la difesa chiedono l'assoluzione, ma i giudici poi decidono per la condanna. Ci sono casi simili, tu ieri hai citato un caso seguito, c'è una sentenza anche della CEDU, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Sì, il mio avvocato ha citato questa sentenza che io adesso non ricordo nello specifico, quindi magari evito di riferirla di nuovo perché non vorrei essere impreciso. Comunque ci sono altri casi del genere in Europa. Purtroppo anche quello del giornalista ucraino è dovuto finire davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Spero non ci sia bisogno di tanto anche per me. Che impressione ti sei fatto da tutto? Tutta questa vicenda, il fatto che tu stessi facendo il tuo lavoro su un tema che è spesso oggetto di tensione, di dibattito acceso anche politico, secondo te può aver influito? Guarda, ho sempre cercato di non esasperare questo lato della vicenda perché si fa presto poi a scadere nel vittimismo o nel complottismo, dire che vogliono mettere il bavaglio ai giornalisti, però questa volta è un po' diverso, cioè questa volta c'era una richiesta esplicita della Procura Generale di assoluzione, quindi non mi spiego in quale altro, cioè non trovo altre motivazioni se non la volontà di mandare un messaggio non tanto a me, perché io tra l'altro non sono un assiduo frequentatore della Val di Susa perché vivo a 800 km di distanza e non è, diciamo, la mia area più facile da raggiungere, però credo che sia un messaggio a tutti i giornalisti che poi vogliono recarsi in futuro in quel territorio per raccontare quello che accade e accadrà. E infatti l'ultima cosa che ti volevo chiedere è con che spirito adesso svolgi il tuo lavoro? Ma io devo dire che ho incontrato una grande solidarietà dalle persone e dai lettori, ma anche e soprattutto dal mio giornale che è fanpage.it, che mi chiede esplicitamente di continuare a fare il mio lavoro come l'ho sempre fatto, e cioè cercando di farlo al meglio, col massimo dell'impegno. Quello che farò quindi è rispettare questa volontà, che è la mia volontà, e quindi io continuerò a fare il mio lavoro al meglio e al massimo, nella speranza che comunque questa storia, insomma, finisca nel migliore dei modi possibili in Cassazione.